questo non è un libro per demonizzare il cellulare, dico io sono molto anche appassionato e lo dico già nelle prime pagine del libro, è un libro per un uso più consapevole, perché alcune cose si possono dire già, e quello che si può dire è che chi dice che non c'è alcun rischio mente. Qual è il punto in termini di ricerca? Quali sono i dati, diciamo, oggettivamente condivisi? Benissimo, succede una cosa, alla fine di maggio, il 31 maggio, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è il braccio specializzato, diciamo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, include i cellulari tra i possibili cancerogeni. Ora, la IARC, l'Agenzia appunto internazionale, è la cassazione della cancerogenicità, cioè è l'ente nel mondo che decide quello che può essere e quello che non può essere cancerogeno, e include i cellulari nella categoria 2B, cioè sono 5 categorie, diciamo. Uno è certamente cancerogeno, 2A è probabilmente cancerogeno e 2B, quella di cui stiamo parlando, è possibilmente cancerogeno. È una svolta di cui tutti, diciamo, prendono coscienza, anche il governo italiano e soprattutto anche in qualche modo, torto collo, l'Istituto Superiore della Sanità, che capisco che oggi non ha voluto intervenire perché per anni appunto ha negato qualsiasi nocività possibile, anche eventuale. Invece il Consiglio Superiore di Sanità, che è un altro organo consultivo che il Ministero della Salute ha interpellato dopo questa decisione, produce un parere che esce il 15 novembre, a cui è stato dato pochissima pubblicità, che dice uso non indiscriminato dei cellulari, soprattutto campagne di sensibilizzazione per i bambini che devono farne un uso limitato alle strette necessità. Ne avete sentito parlare molto di questo parere del Consiglio Superiore di Sanità, io ne ho sentito parlare, che mi occupo, diciamo, professionalmente, ma insomma non molto, direi.